La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Lavoro! Nel biennio della crisi globale, contratti precari al 76% degli assunti. Generazione 1000 euro, pensione a 500, una vecchiaia da poveri. Palermo, in cantieri, 1500 operai a rischio cassa integrazione. In Piemonte c'era un re con manie di grandezza, Re Vittorio Emanuele, con un regno da operetta. Ed intorno c'erano tanti altri regni, tutti grandi. Così per disperazione lui cercò una soluzione. Cominciò da Cavour, Mazzini e Garibaldi, e poi coinvolse tutti quanti. E tra Bixio ed altri mille, e tra fiamme e scintille, completarono a Teano il loro folle colpo di mano. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Taglia alla cultura, 3 giorni di mobilitazione. Il teatro? Guardiamolo al cinema. Scuola, problemi per 21 disabili. Rimangono a casa perché non gli è stato riconosciuto il servizio di trasporto gratuito per legge. Quasi tutte le scuole sono a rischio sismico. Nell'isola non si investe sulla sicurezza dei ragazzi. Così sotto una sola bandiera cominciò la tiritera tra i briganti e di Savoia. Colpa tua, colpa mia, tutti sempre insoddisfatti, nord e sud, cani e gatti. Metternich l'aveva detto, ma pensarono ad un dispetto. C'era troppa differenza tra Rigemano e Cosenza, e tra Alpi e Madonie, proprio niente da spartire. Ma la cosa più tremenda è che la differenza aumenta. Perciò attenti al manuale, rileggetevi il copione. Sventolare il tricolore è una vera provocazione. È concesso solo un patto in un'unica occasione, solo se la nazionale batte tutti nel pallone. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Lampedusa, gli immigrati sono 5.000, i posti sono solo 850, centinaia di sbarchi nella notte, Lampedusa esplode, il sindaco di Lampedusa, il governo non ci governa, non ci governa. Figlia dei Savoia, questa Italia da operetta, questa Italia dei valori, lunga lunga, stretta stretta, da Pontida a Mercogliano, da Monopoli a Belluno, tutti avanti miei prodi, tutti figli di nessuno. Chi è rimasto imbottigliato cerca scampa contromano, chi è fedele alla Padania e chi ha napolitano. Ma che bella rimpatriata, ma che bella fregatura, c'è chi brucia la bandiera e chi incendia spazzatura.